Eccoci giunti, cari ascoltatori, alla 55esima puntata della nostra lunga storia del curato d'Ars. Come ricorderete, noi stiamo tracciando un profilo conclusivo, o meglio riassuntivo, circa la sua personalità morale. E penso che la cosa ci terrà parecchio impegnati. Abbiamo più o meno delineato finora la sua biografia, vero? Ma ora stiamo cercando proprio di cogliere, di abbracciare uno per uno i vari aspetti della sua santità. E così abbiamo anche modo di raccontare tanti episodi che prima ci erano sfuggiti per necessità di tempo o di spazio, ma che meritavano anch'essi senz'altro di essere raccontati. Se avete buone memorie, ricorderete che l'ultima volta si era cercato di introdurre il discorso circa l'umiltà del curato d'Ars. Discorso che fu solo abbozzato, ma che oggi dovremo affrontare con più impegno e completezza. E si era già detto che l'umiltà del nostro santo, del nostro eroe, ed è proprio il caso di dirlo, non si limitava ad essere una virtù ordinaria, necessaria a tutti, che consiste nella giusta valutazione che ciascuno deve avere di se stesso e che in fondo è questione di buon senso, no? No, ma la sua umiltà passava oltre questo grado elementare e giungeva a uno stadio eroico. Quello stadio eroico che, attenti, non è soltanto frutto dell'impegno umano, dell'impegno personale, ma è soprattutto un dono, ovvero un dono di Dio. È frutto di favori particolari. Ripeto, è più dono gratuito di Dio che non risultato di sforzi umani. E di questo dobbiamo dire, carissimi, ha reso testimonianza lui medesimo nei momenti di intimità. Ascoltate con attenzione, per esempio, queste parole che lui disse un giorno a una sua penitente, che non era altro se non la famosa baronessa di Belvei. Le disse così: «Figlia mia, non domandate a Dio di conoscere del tutto la vostra miseria. Io purtroppo questa grazia l'ho chiesta e ottenuta, ma ho avuto in me tale sconcerto che se il Signore non mi avesse sostenuto con la sua grazia sarei caduto nella disperazione». E la stessa cosa più o meno disse un giorno anche al fedelissimo fratello Atanasio, disse: «Fui così spaventato quando conobbi la mia miseria che domandai subito la grazia di dimenticarla. E il Signore mi ha esaudito, sì, ma mi ha lasciato però una tale sensazione della mia insufficienza da essere persuaso che non sono capace di nulla». E a questo proposito, carissimi, dobbiamo dire che egli non ignorava il bene che suscitava col suo ministero, no. Ma si considerava solo uno strumento, è uno strumento nelle mani di Dio. E a lui riferiva quindi ogni gloria. Diceva: io sono come una pialla in mano al Signore. E se il Signore avesse trovato un prete più ignorante e più indegno di me, certamente lo avrebbe scelto per collocarlo al mio posto, in segno della sua infinita misericordia per i poveri peccatori. Dunque, ripeto, rendendosi conto della sua limitatezza, per cui era diventato prete quasi per miracolo, come sapete, comprendeva bene come fosse favorito dall'alto, vero? E che quindi quanto suscitava di bene aveva altra sorgente che non le sue forze. E non si nascondeva neppure che senza l'aiuto divino, che lo tenne sempre saldo in mezzo ai pericoli, avrebbe anche potuto perdersi. E diceva: «Io sono l'ultima delle creature. Se Dio non mi avesse risparmiato, che sarei diventato?» Inoltre, carissimi, dobbiamo dire questo. Non mancano coloro che si fanno umili per raccogliere lodi, vero? Con quella falsa umiltà che il curato d'Ars definiva umiltà a rovescio, ma egli ne restò sempre immune. E se parlava della sua ignoranza, della sua indegnità, della sua miseria, non vi mise mai il minimo senso di affettazione. Ecco, per cui potremmo dire benissimo che egli era l'umiltà personificata. Un parroco che lo aveva conosciuto molto da vicino sintetizzava i suoi ricordi con queste parole: ho imparato a conoscere l'umiltà più che in tutti i libri dall'aspetto, dall'espressione, dal linguaggio del curato d'Ars. Quando parlava di sé come di un peccatore che sente il bisogno di piangere la sua povera vita, lo faceva con tale accento di semplicità e di sincerità che era impossibile mettere in dubbio la veridicità dei suoi sentimenti. Ecco, è vero che egli non riuscì a soffocare l'unanime concerto di lodi, che invece si accrebbe costantemente. Sì, è vero. Ma dobbiamo anche dire, carissimi, che la fama di santità gli ha fatto aureola suo malgrado. E inoltre dobbiamo dire che egli era umile con giusto criterio, cioè non cercava le umiliazioni per se stesse. E quando gli venivano indirizzate parole di lode, non le respingeva direttamente, no, ma si accontentava di sviarne l'attenzione con una replica piena di spirito. Non so, per esempio, possiamo fare questo esempio. Un poeta, venuto ad Ars per conoscere il santo, nel saluto di commiato gli disse: «Signor curato, non ho mai visto Dio così da vicino». «Difatti», commentò Don Vianney, «non è lontano», e indicò il tabernacolo. E qui dobbiamo aggiungere un'altra cosa, carissimi. Non si pensi neppure che cercando l'umiltà il nostro santo abbia voluto attirare su di sé il ridicolo, vero? No. La contessa di Garay ha detto che l'umiltà in lui aveva carattere di dignità. È vero che scherzava qualche volta su se stesso, sì, ma notate, solo tra intimi. E se qualche volta in pubblico sembrò un po' strano, lo fece certamente contro la sua volontà, contro la sua intenzione. Non so, per esempio, i pellegrini che lo videro qualche volta attraversare la strada col suo piccolo vaso di latte in mano, potevano forse sorridere, sì, ma quale motivo di edificazione per essi nel sapere che si comportava così per guadagnare tempo e poter quindi tornare più presto al confessionale? E non mancarono neppure delle occasioni nelle quali egli manifestò apertamente sul suo viso l'afflizione, il disappunto per le lodi ricevute. E ciò si verificava, per esempio, tutte le volte che venivano ad Ars dei predicatori esterni, forestieri, i quali normalmente, parlando in sua presenza, giudicavano cosa buona dire agli uditori una parola di lode a suo riguardo. Era logico. E allora, dice la contessa di Garay, passava nello sguardo del santo un lampo di contrarietà. Immediatamente si nascondeva nel suo stallo con aria di tanta pena che noi stessi ne eravamo afflitti. Alla chiusura di un quaresimale, il predicatore, che aveva fatto una perorazione in lode del servo di Dio, quando giunse alla sacrestia si sentì apostrofare così: «Avete sempre predicato bene, ma disgraziatamente avete rischiato di rovinare tutto nell'ultimo sermone». Un giorno il vescovo, Monsignor De Vie, essendo lui presente, espresse ad alta voce un suo pensiero per semplice disattenzione e disse: «Il mio santo curato». Ebbene, queste sole parole furono per lui una vera desolazione, che gli fece esclamare: «Persino il mio vescovo si inganna a mio riguardo. Quanto devo dunque essere ipocrita?» E qui dobbiamo registrare un episodio rimasto molto famoso. Fratello Gabriele, superiore della Congregazione della Sacra Famiglia, aveva scritto un libro dal titolo L'angelo conduttore dei pellegrini di Ars, e ne portò 6 copie al santo, che le ricevette con gioia, commentando che quel libro avrebbe fatto tanto del bene. Ma attenti,

che era già scomparso. E qui, carissimi, dobbiamo aggiungere un'altra cosa, anche un po' ridicola, Il nostro eroe sopportò sempre a malincuore l'accalcarsi della folla attorno a lui, e provò dispiacere, come attesta la solita contessa di Garè, provò dispiacere constatando che si cercavano oggetti a lui appartenuti per tenerli come reliquie. Un giorno, accorgendosi che era stata tagliuzzata la sua veste, gemeva dicendo: «Che devozione malintesa!» E quando si faceva tagliare i capelli, aveva cura di raccoglierli personalmente per bruciarli subito nel caminetto della sua camera. Ma dobbiamo dire che i suoi barbieri non furono mai troppo scrupolosi, vero? E si lasciarono comperare senza troppa resistenza. Per cui uno di loro, che non era altro se non Giovanni Pertinandi, il famoso maestro del villaggio, si fece molti amici con i pii ladrocini che rinnovava a ogni occasione. E il Corrado D'Ars, che era il meno sospettoso degli uomini, molte volte non si rendeva conto di questi furti. Per esempio, dopo una missione, accorgendosi che era scomparso il suo candeliere, uscì con questa osservazione: «Strano, pensavo che tutti si fossero convertiti qui ad Ars, ed ecco che sono vittima di furti». E quando negli ultimi anni della sua vita il dottor Saunier pensò di levargli un po' di sangue, famoso salasso, no?, tanto usato dalla medicina del tempo, Don Vianney lo fece portare al cimitero, perché si trattava di sangue cristiano, no?, ma volle che fosse sepolto in sua presenza. Beh, comunque è facile immaginare che queste precauzioni non impedirono ai buoni fratelli della Sacra Famiglia di sottrarre un po' di questo sangue per distribuirlo come preziosa reliquia. Adesso facciamo un attimo solo di pausa, poi concluderemo questa puntata della vita del Corrado D'Ars. E ora, carissimi, sempre a riguardo dello stesso argomento, cioè l'umiltà del Corrado D'Ars, dedichiamoci a un aspetto particolare. Cioè dedichiamoci al capitolo intitolato «I ritratti del Corrado D'Ars». E diciamo subito che fu per lui una prova quanto mai penosa quella di vedere il suo ritratto affisso dappertutto nel piccolo villaggio. Verso il 1845 cominciarono ad apparire, a divulgarsi, delle immagini nelle quali erano rappresentati diversi fatti della sua vita. Turbato e afflitto, tentò dapprima di farli sparire, ma incontrò purtroppo per lui l'opposizione dei mercanti, che si aiutavano in questo modo a campare la vita, per guadagnarsi la vita. Per cui si lasciò convincere dalle loro insistenze. «Quanto ricavate da queste immagini?» chiese un giorno a uno di loro. 10 centesimi, signor curato». 10 centesimi? È già troppo per questo misero carnevale. Fate pure». Un giorno, passando davanti a una vetrina, vide il suo ritratto e ne chiese il prezzo. 5 franchi, signor curato». 5 franchi? Non riuscirete a venderlo. Il Corrado D'Ars non li vale». Alla fin fine, dicevo qualche volta, se questo povero carnevale serve a far ricordare i consigli che ho dato, non sarà del tutto inutile. Tuttavia, per indicare il disprezzo in cui teneva queste cose, rifiutò sempre di mettere il suo nome su tali immagini e di benedirle. E ogni volta che ne trovava qualcuna fra le immagini che a lui si presentavano, la toglieva con gesto brusco e con riflessioni canzonatorie. Per esesempio diceva: «Serve solo 3 giorni all'anno», e voleva dire gli ultimi 3 giorni di carnevale. Ma infine, stanco, si limitava a burlarsene. «Un giorno», dice la contessa di Garè, «dopo essersi trattenuto con mio marito davanti alla chiesa, lo condusse davanti alla vetrina di una bottega e gli indicò quello che egli chiamava il suo carnevale, parlandone con le uscite più comiche che si possono immaginare». A una giovane sua parrocchiana che aveva la bottega vicino al cimitero, diceva: «Tu giungi perfino a impiccarmi e a vendermi». E a Caterina Lassagne un giorno annunciava: «Mi hanno fatto un nuovo ritratto e questa volta sono proprio io, difatti ho l'espressione di un'oca». Quando vide una delle sue immagini con colori più vivaci del solito, commentò allegramente: «Guardate, si direbbe che esco ora dall'osteria». Ma attenti, vi fu un punto sul quale fu sempre inflessibile, cioè non acconsentì mai a posare per una fotografia. La sola che si possiede di lui gli venne presa sul letto di morte. Nel 1858, cioè l'anno prima della morte, Don Toccanier, suo coadiutore, d'accordo con lo scultore Cabuchet, decise di ottenere, a costo di qualsiasi sacrificio, un'immagine un po' più fedele, perché fino a quel giorno non si avevano altro che ritratti senza somiglianza, presi alla sfuggita o anche solo disegnati a memoria. Bene, il celebre scultore Cabuchet voleva realizzare niente meno che un busto in cera. Ma come riuscirvi? Si pensò di mettere di mezzo il vescovo stesso, il quale ben volentieri consegnò allo scultore una lettera di raccomandazione destinata a vincere ogni difficoltà. E l'artista ebbe la malaugurata idea di consegnarla proprio in confessionale, fingendo di doversi confessare. Bene, il curato, dopo averla letta, si alzò, condusse il falso penitente fino alla porta della chiesa e lo congedò con queste parole perentorie: «No, no, né per voi né per il vostro vescovo». Essendo necessario quindi giocare d'astuzia, Don Toccanier pensò di assicurare allo scultore un posto nella chiesa dal quale fosse possibile osservare il modello. Per cui l'artista assistette alla lezione di catechismo del santo, nascondendo nell'ampio copricapo la provvista di cera. Aveva pensato di poter lavorare senza essere visto. Difatti tutto sembrava procedere bene. Ma dopo 8 giorni il curato, anche se con voce non eccessivamente severa, lo apostrofò bruscamente: «Voi laggiù, quando finirete di distrarre me e gli altri?» Ma a questo punto il grande scultore aveva ormai completato il suo lavoro, per cui lo portò nel refettorio dei missionari e Don Vianney, messo di fronte alla sua immagine, la guardò e diede questo giudizio tra il faceto e il confuso: «Ah, questo non è un carnevale! Chi l'ha fatto?» Lo scultore si fece avanti: «Dunque mi avete disobbedito? Posso io perdonarvi?» A questo punto tutti i presenti si pronunciarono in favore dell'artista, per cui Don Vianney acconsentì, se non altro, a non esigere la distruzione dell'opera, era già tanto, quell'opera che lo rappresentava con tanta verità. Dopo di aver comunque ottenuto dall'autore la promessa che non l'avrebbe presentata al pubblico prima della sua morte. E così abbiamo terminato, carissimi, anche questa 55esima puntata della nostra storia, che penso sia stata senz'altro una delle più significative, vero? Ma dovremo comunque completare l'argomento leggendo alcuni pensieri del curato d'Ars sull'umiltà. Pronto, padre Roberto? Buonasera, don Tino. Buonasera, padre Roberto. Allora, a te l'incarico di commentare le letture della prossima domenica, che il rito romano è la